Noi gândim la to sorte, sota la to grande storia, toi usore, ia to buria, ai tu strato la morte. A tu mano gloriosa e forte, alla tua storia ci spara, quando tu, Santa Chiara, ti sveglia e ti lode. A chi se fiera la clara, la entrañable trasparenza, e tu, querida presenza, comandante, che Guevara. Veni bruciando la brisa, un sole di primavera, e per piantare la bandiera voluto veloso reso. Con tuo amore rivoluzione ti porta nuova impresa, sperando la firmezza, un pugno di liberazione. A chi se quiera la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Davanti sempre con te avanzemo, e con Fidel diremo hasta sempre, comandante. A chi se quiera la clara, la entrañable transparencia, e tu querida presencia, comandante Che Guevara. Se quiera la clara, la entrañable transparencia de tu.